terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Apparivano tutte e due invecchiati, mio padre e mia madre, alla fine della guerra. Mia madre, gli spaventi e le disgrazie la invecchiavano di colpo, nello spazio di un giorno. Aveva sempre in quegli anni uno scialle di lana d'angora viola, comprato dalla Parisini, e si ravviluppava in quello scialle. Aveva freddo negli spaventi e nelle disgrazie e diventava pallida, con larghi cerchi scuri sotto gli occhi. Le disgrazie la sbattevano e la avvilivano, la facevano camminare adagio, mortificando il suo passo trionfante, e le scavavano nelle gote due buche profonde. Tornarono a Torino, nella casa di via Pallamaglio, che ora si chiamava via Morgari. La fabbrica di vernici sulla piazza era bruciata in un bombardamento, e così lo stabilimento di bagni pubblici. Ma la chiesa era stata appena un poco danneggiata ed era sempre là, sostenuta ora da intravature di ferro. «Peccato», disse mia madre, «poteva crollare». «È così brutta?» «No, signore, è rimasta in piedi». La nostra casa venne riparata e rimessa in ordine. C'era legno compensato al posto di qualche vetro rotto e mio padre fece mettere delle stufe nelle stanze perché non funzionavano i termosifoni. Mia madre chiamò subito la Tersilla. E quando ebbe la Tersilla nella stanza da stiro davanti alla macchina da cucire, tirò il fiato e le parve che la vita potesse riprendere il suo ritmo antico. Prese stoffe a fiori per coprire le poltrone, che erano state in cantina e avevano in qualche punto macchie di muffa. Infine fu riappeso nella sala da pranzo, sopra il divano, il ritratto della zia Regina, che ora di nuovo guardava dall'alto con gli occhi tondi e chiari, coi guanti, la pappagorgia e il ventaglio. «Ai piccoli una mela, ai grandi il diavolo che li pela», diceva sempre mia madre alla fine del pranzo. Poi smise di dire così, perché di nuovo c'erano mele per tutti. «Non sanno di niente queste mele», diceva mio padre. E mia madre diceva, «Ma Beppino, son carpendu?» Mio padre informò Chevremont che intendeva far dono all'Università di Liegi della sua biblioteca che era rimasta là, per gratitudine, perché l'avevano ospitato mentre c'era in Italia la campagna razziale. Era sempre in corrispondenza con Chevremont, si scrivevano e Chevremont gli mandava le sue pubblicazioni. Mia madre i luoghi li pensava soltanto in funzione della gente che vi conosceva. In tutto il Belgio per lei non esisteva che Chevremont. Quando in Belgio succedeva qualcosa, alluvioni o cambiamenti di governo, mia madre diceva «Chissà cosa dirà Chevremont?» In Francia, prima che ci andasse Mario, per lei non c'era che un certo signor Policar, che avevano incontrato lei e mio padre a un congresso. Diceva sempre «Chissà Policar?» In Spagna conosceva uno che si chiamava Di Castro. Se leggeva di temporali o di mareggiate in Spagna, diceva «Chissà Di Castro?» Quel Di Castro, in uno dei suoi soggiorni a Torino, una volta si era ammalato e non si capiva che malattia avesse. Mio padre lo fece entrare in una clinica e chiamò a vederlo un mucchio di medici. Qualcuno diceva che aveva forse una cosa al cuore. Di Castro aveva la febbre alta, delirava e non riconosceva nessuno. Sua moglie, venuta da Madrid, continuava a ripetere «Non è il corazon, è la cabeza!» Guarito, Di Castro ritornò in Spagna. Venne il governo franchista, poi la guerra mondiale e non se ne seppe più nulla. «Non è il corazon, è la cabeza!» diceva però sempre mia madre, evocando la Spagna e la signora Di Castro. La guerra inghiottì anche il signor Policar. Nemmeno della Grassi, che viveva a Friburgo, in Germania, si seppe più nulla. Mia madre la evocava spesso, diceva «Chissà cosa farà in questo momento la Grassi?» «Sarà morta», a volte diceva. «Oh, che senso che forse è morta la Grassi!» La sua geografia era tutta sconvolta dopo la guerra. Non si poteva più evocare tranquillamente la Grassi o il signor Policar. Essi avevano un tempo il potere di trasformare, agli occhi di mia madre, paesi lontani e ignoti in qualcosa di domestico, di usuale e lieto, di fare del mondo come un borgo o una strada che si poteva percorrere in un attimo col pensiero, sulla traccia di quei pochi nomi usuali e rassicuranti. Il mondo appariva invece, dopo la guerra, enorme, inconoscibile e senza confini. Mia madre, tuttavia, riprese ad abitarlo come poteva. Riprese ad abitarlo con lietezza, perché il suo temperamento era lieto. Il suo animo non sapeva invecchiare e non conobbe mai la vecchiaia, che è starsene ripiegati in disparte piangendo lo sfacelo del passato. Mia madre guardò lo sfacelo del passato senza lacrime e non ne portò il lutto. Non amava del resto vestirsi in lutto. Quando era morta sua madre, lei stava allora a Palermo e se ne venne a Firenze, dove sua madre era morta all'improvviso e da sola. Ebbe un grande dolore nel vederla morta. Poi uscì per comprarsi un vestito da lutto, ma invece di comprare un vestito nero, come s'era proposto, si comprò un vestito rosso e tornò a Palermo con quel vestito rosso nella valigia. Disse alla Paola: «Cosa vuoi, la mia mamma non poteva soffrire i vestiti neri e sarebbe contentissima se mi vedesse con questo bellissimo vestito rosso». Alla Cia venne male a un piede, pus ne sgorgava a volte la sera, la mutua la mandò a Vercelli. Giovani poeti scrivevano e portavano in lettura alla casa editrice versi di questa specie. In particolare la terzina sulla Cia faceva parte di un lungo poema sulle mondine. Era il dopoguerra, un tempo in cui tutti pensavano d'essere dei poeti e tutti pensavano d'essere dei politici. Tutti si immaginavano che si potesse e si dovesse anzi far poesia di tutto, dopo tanti anni in cui era sembrato che il mondo fosse ammutolito e pietrificato e la realtà era stata guardata come di là da un vetro, in una vitrea cristallina e muta immobilità. Romanzieri e poeti avevano negli anni del fascismo digiunato, non essendovi intorno molte parole che fosse consentito usare. E i pochi che ancora avevano usato parole le avevano scelte con ogni cura nel magro patrimonio di briciole che ancora restava. Nel tempo del fascismo i poeti saranno trovati a esprimere solo il mondo arido, chiuso e sibillino dei sogni. Ora c'erano di nuovo molte parole in circolazione e la realtà di nuovo appariva portata di mano. Perciò quegli antichi digiunatori si diedero a vendemmiarvi con delizia. E la vendemmia fu generale, perché tutti ebbero l'idea di prendervi parte. E si determinò una confusione di linguaggio fra poesia e politica, le quali erano apparse mescolate insieme. Ma poi avvenne che la realtà si rivelò complessa e segreta, indecifrabile e oscura non meno che il mondo dei sogni. E si rivelò ancora situata di là dal vetro, e l'illusione di aver spezzato quel vetro si rivelò effimera. Così molti si ritrassero presto sconfortati e scorati e ripiombarono in un amaro digiuno e in un profondo silenzio. Così il dopoguerra fu triste, pieno di sconforto dopo le allegre vendemmie dei primi tempi. Molti si appartarono e si isolarono di nuovo, o nel mondo dei loro sogni, o in un lavoro qualsiasi che fruttasse da vivere, un lavoro assunto a caso e in fretta, e che sembrava piccolo e grigio dopo tanto clamore. E comunque tutti scordarono quella breve, illusoria compartecipazione alla vita del prossimo. Certo, per molti anni nessuno fece più il proprio mestiere, ma tutti credettero di poterne e doverne fare mille altri insieme. E passò del tempo prima che ciascuno riprendesse sulle sue spalle il proprio mestiere e ne accettasse il peso e la quotidiana fatica e la quotidiana solitudine, che è l'unico mezzo che noi abbiamo di partecipare alla vita del prossimo, perduto e stretto in una solitudine uguale. Quanto ai versi della Cia che aveva male al piede, essi non ci sembrarono allora belli, anzi ci sembrarono come sono bruttissimi, ma oggi ci appaiono tuttavia commoventi, parlando alle nostre orecchie il linguaggio di quell'epoca. C'erano allora due modi di scrivere, e uno era una semplice enumerazione di fatti sulle tracce di una realtà grigia, piovosa, avara, nello schermo di un paesaggio disadorno e mortificato. L'altro era un mescolarsi ai fatti con violenza e con delirio di lacrime, di sospiri convulsi, di singhiozzi. Nell'un caso e nell'altro non si sceglievano più le parole, perché nell'un caso le parole si confondevano nel grigiore e nell'altro si perdevano nei gemiti e nei singhiozzi. Ma l'errore comune era sempre credere che tutto si potesse trasformare in poesia e parole. Ne conseguì un disgusto di poesie e parole così forte che incluse anche la vera poesia e le vere parole, per cui alla fine ognuno tacque, impietrito di noia e di nausea. Era necessario tornare a scegliere le parole, a scrutarle per sentire se erano vere o false, se avevano o no vere radici in noi, o se avevano soltanto le effimere radici della comune illusione. Era dunque necessario, se uno scriveva, tornare ad assumere il proprio mestiere che aveva, nella generale ubriachezza, dimenticato. E il tempo che seguì fu come il tempo che segue all'ubriachezza, e che è di nausea, di languore e di tedio, e tutti si sentirono in un modo o nell'altro ingannati e traditi, sia quelli che abitavano la realtà, sia quelli che possedevano o credevano di possedere i mezzi per raccontarla. Così ciascuno riprese, solo e malcontento, la sua strada. Adriano capitava a volte nella casa editrice. Gli piacevano le case editrici e voleva anche lui farne una, ma la casa editrice che aveva in testa di fare era diversa da quella, perché lui non intendeva pubblicare né poesie né romanzi. Aveva amato nella sua giovinezza un solo romanzo, I sognatori del ghetto, di Israel Zangwill. Tutti gli altri che aveva letto dopo non l'avevano scosso. Mostrava gran rispetto per i romanzieri e i poeti, ma non li leggeva. E le sole cose che lo attraevano al mondo erano l'urbanistica, la psicanalisi, la filosofia e la religione. Thank you. Adriano era ormai un grande e famoso industriale. Conservava tuttavia ancora nell'aspetto qualcosa di randagio, come da ragazzo quando faceva il soldato, e si muoveva sempre col passo strascicato e solitario di un vagabondo. Ed era ancora timido, e della sua timidezza non sapeva giovarsi come di una forza, al modo dell'editore, perciò usava ricacciarla indietro, in presenza di persone che incontrava per la prima volta, fossero autorità pubbliche o poveri ragazzi venuti a domandargli un posto alla fabbrica. Buttava indietro le spalle, raddrizzava la testa e accendeva i suoi occhi di uno sguardo immobile, freddo e puro. Lo incontrai a Roma per la strada un giorno durante l'occupazione tedesca. Era a piedi, andava solo col suo passo randagio, gli occhi perduti nei suoi sogni perenni che li velavano di nebbie azzurre. Era vestito come tutti gli altri, ma sembrava nella folla un mendicante e sembrava nel tempo stesso anche un re. Un re in esilio, sembrava. Leone fu arrestato in una tipografia clandestina. Avevamo quell'appartamento nei pressi di Piazza Bologna ed ero sola in casa con i miei bambini e aspettavo e le ore passavano. E capii così a poco, non vedendolo ritornare, che dovevano averlo arrestato. Passò quel giorno e la notte e la mattina dopo venne da me Adriano e mi disse di lasciar subito quell'alloggio perché Leone infatti era stato arrestato e là poteva venire da un momento all'altro la polizia. Mi aiutò a fare le valigie, a vestire i bambini e scappammo via e mi condusse da amici che acconsentivano ad ospitarmi. Io ricorderò sempre, tutta la vita, il grande conforto che sentii nel vedermi davanti quel mattino la sua figura che mi era così familiare, che conoscevo dall'infanzia, dopo tante ore di solitudine e di paura, ore in cui avevo pensato ai miei che erano lontani, al nord, e che non sapevo se avrei mai riveduto. E ricorderò sempre la sua schiena china a raccogliere per le stanze i nostri indumenti sparsi, le scarpe dei bambini, con gesti di bontà umile, pietosa e paziente. E aveva, quando scappammo da quella casa, il viso di quella volta che era venuto da noi a prendere Turati, il viso trafelato, spaventato e felice di quando portava in salvo qualcuno. Quando veniva alla casa editrice, Adriano usava intrattenersi con Balbo, perché Balbo era un filosofo e lui aveva una profonda attrazione per i filosofi e Balbo, dal canto suo, aveva una profonda attrazione per tutti gli industriali e gli ingegneri, per le fabbriche, i problemi di fabbrica, le macchine e i motori. Attrazione e passione di cui si vantava con noi, con Pavese e con me, dicendo che eravamo degli intellettuali e che lui non lo era, perché noi non capivamo nulla di fabbriche e di macchine. Attrazione e passione che finiva nella contemplazione delle motociclette nei posteggi, quando ritornava a casa la sera. Adriano e la Paola si erano divorziati dopo la guerra. Lei viveva a Firenze, sulle colline di Fiesole, e lui a Ivrea. Lui era tuttavia rimasto amico di Gino e si vedevano sempre, benché Gino avesse, dopo la guerra, lasciato Ivrea e la fabbrica e lavorasse a Milano. Gino era anzi forse uno dei suoi pochissimi amici, perché lui era fedele agli amici e alle cose scoperte e conosciute nella sua giovinezza, così come era rimasto fedele nell'intimità del suo spirito al romanziere Israel Zangwill. La sua fedeltà era però puramente affettiva e non si estendeva al mondo della realizzazione, dove invece era sempre pronto a disfare quello che aveva fatto e a cercare sempre nuove e più moderne strade e tecniche, sembrandogli che le cose che attuava gli invecchiassero tra le mani. E rassomigliava in questo all'editore, anche lui sempre pronto a mandare in polvere quello che solo ieri aveva scelto e creato, sempre ansioso e inquieto nella ricerca del nuovo, ricerca che metteva avanti a tutto e di fronte alla quale non c'era nulla che lo fermasse, né la considerazione della fortuna ottenuta con le antiche invenzioni, né lo sgomento e le proteste di quanti lo circondavano, i quali s'erano affezionati a quelle invenzioni antiche e non capivano perché mai si dovessero buttar via. Thank you. Ora lavoravo anch'io nella casa editrice. La casa editrice e il fatto che io vi lavorassi erano visti da mio padre con approvazione e simpatia e da mia madre con diffidenza e sospetto. Mia madre, infatti, trovava che là c'era un ambiente troppo di sinistra, perché dopo la guerra s'era messa ad aver paura del comunismo, al quale prima non aveva mai pensato. Non le piaceva nemmeno il socialismo di Nenni, che trovava troppo rassomigliante al comunismo. Preferiva i Saragattiani, ma anche loro non le andavano del tutto a genio e le pareva che Saragat avesse una faccia che non sapeva di niente. Turati, Bisolati, diceva, la Kulishov, quelli sì che erano simpatici. No, la politica oggi non mi piace. Andava a trovare la Paola Carrara, che era là nel suo salottino, sempre buio e pieno di uccellini finti, di cartoline e di bambole. Ed era là, imbronciata, perché anche lei ce l'aveva coi comunisti e temeva che si impadronissero dell'Italia. Sua sorella e suo cognato erano morti e lei non aveva più ragione di andare a Ginevra, né leggeva più il Journal de Genève, né aspettava più la fine del fascismo o la morte di Mussolini, essendo Mussolini e il fascismo periti da tempo. Perciò in lei restava una viva antipatia per i comunisti e il rammarico che le opere di Guglielmo Ferrero, suo cognato, non fossero state in Italia, dopo la fine del fascismo, rivalutate come meritavano. Non invitava più la gente la sera nel suo salottino. Gli abituali frequentatori del suo salottino, gli antifascisti di una volta, erano andati ad abitare a Roma, avendo avuto mansioni politiche. Restavano i miei genitori e pochi altri, che lei ancora certe sere invitava, ma senza più l'antico piacere. Tutti li trovava troppo di sinistra, salvo mia madre, e perciò finiva con l'addormentarsi imbronciata nel suo abito di seta grigia, le mani raccolte nello scialle grigio, lavorato al crochet. «Ti fai metter su contro i comunisti dalla Paola Carrara?» diceva mio padre a mia madre. «A me non mi piacciono i comunisti», mia madre diceva. «La Paola Carrara non c'entra, non mi piacciono. Io amo la libertà, in Russia non c'è la libertà». Mio padre ammetteva che in Russia non ci fosse, forse, grande libertà. Era però attratto dalle sinistre. Olivo, il suo antico assistente, che ora aveva la cattedra a Modena, era di sinistra. «Anche Olivo è di sinistra», diceva mio padre a mia madre, e mia madre diceva «Vedi che sei tu che ti fai mettere su da Olivo». Mio padre e mia madre, dunque, erano tornati a stare, dopo la guerra, in via Pallamaglio, che ora si chiamava via Morgari. Io abitavo con loro, insieme ai miei bambini. Non c'era più la Natalina, perché subito dopo la guerra la Natalina s'era messa su una soffitta con certi mobili che le aveva dato mia madre e faceva servizi a ore. «Non voglio più essere schiava», aveva detto la Natalina, «voglio la libertà». «Stupida che sei», le diceva mia madre, «figurati se io ti tengo schiava, sei più libera di me». sono schiava», diceva la Natalina col suo tono concitato e minaccioso, scuotendo la scopa. E mia madre allora usciva di casa dicendo «Esco perché non ti posso vedere, sei proprio diventata antipatica!» E andava a sfogarsi dal verduriere e dal macellaio. «Da me sta al caldo, non le manca niente?» spiegava. «Proprio una stupida!» Andava da Alberto e Miranda, che abitavano poco lontano, sul Corso Valentino, e anche con loro si sfogava. «Non ha tutta la libertà che vuole! Io non tengo in schiavitù nessuno!» diceva. E diceva «Ma io, senza la Natalina, come farò?» La Natalina si trasferì nella sua soffitta. Veniva tuttavia sempre a trovare mia madre, la quale sul principio aveva sperato che si pentisse e tornasse da lei, poi s'era rassegnata. Aveva ora un'altra donna. «Addio, Luigi XI», diceva la Natalina che se ne andava per rientrare alla sua soffitta, che era, a quanto raccontava, splendida, e dove invitava la sera la Tersilla e suo marito a prendere il caffè. «Addio, Luigi XI, addio Marà!» Thank you.